insomma, con cadenza settimanale oppure bisettimanale, come ultimamente ci siamo fatti prendere un po' la mano, ecco, noi organizziamo questi incontri con l'autore, dei dibattiti oppure delle conferenze tematiche legate anche a una bibliografia che predisponiamo per l'occasione, e cerchiamo in questo modo di valorizzare il patrimonio librario, di favorire la lettura e di far conoscere anche la biblioteca con i suoi servizi. Chiediamo anche di iscriversi, i moduli sono qui, l'iscrizione è gratuita e dà quindi anche la possibilità alla biblioteca di informarvi costantemente delle nostre iniziative. Questa sera sono qui con noi e li ringrazio della loro presenza e della loro adesione, Peter Di Sartori, autore appunto del libro I segreti dei rotoli di Qumran, e con lui c'è l'editore, che è il signor Giampiero Dalle Molle. Vi cedo subito la parola, ci saranno delle bellissime immagini che accompagneranno questa presentazione, abbiamo altri libri dell'autore che questa sera è qui con noi. Ecco, vi auguro una buona serata e spero di rivedervi giovedì 29 con la nostra prossima iniziativa e anche il 2 aprile. Insomma, avete tutte le cartoline e le indicazioni del caso. Grazie, arrivederci. Grazie. Non so se funzioni, no. Proviamo? Sì. Ringrazio tutti, così numerosi. Nella prima giornata estiva del 2012 mi fa molto piacere che un numero così elevato di persone abbia accettato di rinchiudersi dentro quattro mura nonostante la splendida giornata. Siamo qui per presentare appunto l'ultima fatica di Peter Di Sartori dedicata a questo mistero archeologico che sono i rotoli di Qumran. Parlo di ultima fatica di Peter Di Sartori perché Di Sartori non è al suo primo libro. Con noi, con la nostra casa editrice Inchiostro, il Ricci Editore di Verona, lui pubblicò nel 2007 un altro suo libro, un romanzo, Dolomiti di Piombo, ambientato fra l'altro in provincia di Bolzano, diciamo il primo romanzo dedicato agli anni di piombo, gli anni 60, e quello che voi ben sapete meglio di me succedeva nella provincia di Bolzano. Dopo quattro anni dalla pubblicazione di quel romanzo da parte nostra, l'estate scorsa Di Sartori mi ha proposto questo nuovo titolo, che non aveva niente a che fare, era tutt'altro genere, tutt'altro argomento, perché si trattava non più di un romanzo ma di un saggio, e ambientato anziché in provincia di Bolzano o comunque nelle valli alpine a 4.000-5.000 km di distanza, ovvero nel deserto attualmente ai confini tra Israele e Giordania, dove alla fine degli anni 40 e negli anni successivi sono stati rinvenuti alcuni, diciamo, svariate centinaia di reperti chiamati appunto i rotoli di Qumran, dei quali meglio ci parlerà Peter. Devo dire che quando lui è venuto in redazione da me a Verona quest'estate, io ero molto dubbioso, lo confesso, sulla natura di questo libro, e questo dimostra anche che io come editore non ho assolutamente, ho sbagliato completamente mestiere, perché ero molto dubbioso sull'effettivo interesse che poteva avere questo libro. Prima di tutto perché, non neghiamocelo, non era scritto da un illustrissimo accademico, che ne so io, dell'università di Berkeley o di Oxford, ma da uno studioso appassionato, senza particolari titoli accademici per affrontare una simile opera. E perché poi era comunque un'opera molto settoriale, molto specifica. Tant'è vero, della qualcosa non è che mi vergogno, ma devo confessarlo, non è uscito con il nostro marchio, che è appunto Inchiostro, il Riccio, ma con un'etichetta, chiamiamola così, diversa, che è Lucus Edizioni, che è sempre fa parte della, diciamo, della galassia della nostra casa editrice, ma non è specificamente il marchio che è deputato a pubblicare opere di narrativa come appunto Inchiostro. Comunque ero, confesso, abbastanza scettico su quale potesse essere l'interesse che un simile titolo poteva suscitare, e ammetto che mi sono clamorosamente sbagliato nella maniera più assoluta, perché in pochissimi mesi questo libro è già alla seconda edizione, ha suscitato un notevole interesse, articoli di giornale, ha sollevato un piccolo vespaio comunque nel suo ambito, ma insomma ha lasciato il segno, tant'è vero appunto che in pochissimi mesi abbiamo dovuto pubblicare la seconda edizione e siamo penso ormai all'ottava, alla decima presentazione del libro stesso. Io mi sono domandato, diciamo dal punto di vista professionale, il motivo per cui un simile libro potesse aver avuto il seguito che ha avuto, e forse la risposta è proprio quella che ho detto all'inizio, ovvero sia che non è scritto dal professore universitario con un pochino di puzzetta sotto il naso e molti titoli accademici da spargere a quattro mani, ma da un appassionato di archeologia si rivolge ad altri appassionati di archeologia, o se vogliamo andare anche al di là, da un appassionato di conoscenza ad altri appassionati di conoscenza. Perché, ne parlerà meglio adesso l'autore, poi semmai mi riservo di specificarlo in una seconda battuta, ma questo libro appunto è un campo base, noi lo definiamo, cioè un primo approccio per conoscere una materia così non solo vasta, ma anche molto, ma anche suscettibile di ulteriori approfondimenti. Diciamo che fornisce quegli elementi per poter poi approfondire secondo le aspirazioni e gli interessi di ciascuno. Soprattutto è un libro che non propone una tesi precostituita, ma solleva numerosi dubbi. Alcuni di questi sono dubbi di importanza notevole, perché nella ricostruzione di quegli anni Peter arriva a mettere in discussione molte verità che noi consideriamo in qualche modo acquisite, a cominciare dalla natura dei Vangeli stessi e da quello che i Vangeli stessi raccontano. Per cui in qualche modo, ma ripeto, adesso passo la parola a Peter, la stessa figura di Gesù Cristo, almeno così come c'è tramandata da quasi 2000 anni, viene messa in discussione, almeno per quanto riguarda alcuni degli aspetti della figura di Cristo. Ciò non di meno, questo non è assolutamente un libro che contesta la visione religiosa del cristianesimo, e tantomeno è un libro anticlericale, semplicemente è un libro che pone dei dubbi, che si fa delle domande e le pone ai lettori. Starà poi ai lettori dare ciascuno la risposta che ritiene più convincente, più veritiera. In altre parole, e con questo davvero concludo, forse il successo di questo libro sta proprio, senza scomodare grandi nomi, però un po' quello che diceva Aristotele nella sua Poetica, cioè un libro deve rispondere ad alcuni requisiti che sono fondamentali e che sono la finalità euristico-didascalica, cioè insegnare, trasmettere qualcosa, e questo libro sicuramente lo fa, la finalità, chiamiamola così, morale, perché comunque senza morale, non con una valenza etica, ma nel senso di far crescere il lettore quando ne ha terminato la lettura, e infine la terza e fondamentale caratteristica è quella anche di far divertire il lettore, perché questo è un libro comunque non assolutamente pesante, non assolutamente tedioso, ma che si fa leggere dalla prima all'ultima pagina anche da chi, come sottoscritto e molti altri, non sono degli studiosi specifici della materia. Grazie. Ringrazio l'editore che mi ha preceduto, ma soprattutto ringrazio voi per la presenza e vi auguro buonasera di cuore. Per me è un piacere poter parlare di questo libro, perché al di là di quello che ha detto l'editore, che sono delle cose secondo me anche abbastanza azzeccate, quello che ha spinto, mi ha spinto a scrivere, a mettere nero su bianco questa esperienza, che poi è stato un viaggio fatto in Israele con alcuni amici, un viaggio turistico, tra virgolette, intelligente, non di quelli come si sente nella cronaca che vanno a finire male, quindi anche accompagnati da persone dotte, che mi hanno portato a volere, come si può dire, esprimere questi, tutti questi dubbi, queste cose che sono nate, soprattutto alla luce di storie antecedenti. Cioè io ancora alla fine degli anni 90, quasi per caso, ho saputo che sono stati trovati vicino a Gerusalemme degli scritti che erano intonsi da quasi 2000 anni e quindi coevi a quello che era Cristo, e di cui ufficialmente o comunque non si sapeva niente o poco. La prima cosa a dimostrazione di questo, o anche a contraddizione di questo, che se io vado su Google, su un motore di ricerca, sulla parola Qumran ci sono più di 240.000 voci. Però manca una visione d'insieme. A me viene sempre un po' da ridere quando parlano di me come studioso, perché mi ricordo proprio qua a Bolzano quando prendevo dei due meno meno di greco e di latino a Carducci, quindi proprio la figura dello studioso non è che mi si addice molto, però vuol dire che col tempo si matura e forse si ricretinisce anche, non lo so. Comunque, quindi al di là di queste battute, mi hanno insegnato una cosa, cioè di mettersi al soggetto, predicato e verbale, complemento oggetto. Ecco, su questi manoscritti, su questi reperti, sembra quasi che ad arte sia stata stesa una nebbia fittissima. Cioè ci sono 240.000 voci, dei libri straordinari, estremamente specifici, ma manca proprio questo contesto. Allora io mi sono ripromesso, proprio per persone come me, che hanno un background culturale normale, di poter capire cosa è successo e perché è stato oscurato questo. Allora, la prima cosa che va fatta, a mio parere, è capire anche geograficamente di cosa stiamo parlando, perché la geografia, anche se era considerata una delle materie serie B, è fondamentale. Allora, il deserto di Giuda si trova nella depressione del Mar Morto, nella Rift Valley, che comincia dal Libano e finisce praticamente nel Madagascar, Mogadiscio, quindi è lunga 6.000 km. Ed è una depressione, si va a meno 400 metri, cioè sotto 400 metri del livello del mare. Tenuto conto che Gerusalemme è circa come Innsbruck, che è 700-800 metri sopra, nel giro di 20 km si scende quasi un chilometro e due, si arriva in questa depressione. Allora, la prima cosa che dice, ma cos'è questa depressione? È un deserto? Che senso ha? Allora, innanzitutto, questa depressione finisce nel Mar Rosso, quindi era nel Mar Rosso, quindi era l'unica via dalla Mesopotamia, che passando era praticamente un crocevia fondamentale. Questo spiega anche perché Gerusalemme, che non ha fiumi, che non ha porti, che non ha niente, sia da più di 3.000 anni un punto importantissimo, è proprio un crocevia tra Asia, Europa e Africa. E lì nel deserto di Giuda, che non è il deserto come immaginavo io quando si sentiva a scuola Cristo o Giovanni Battista andavano nel deserto a pregare, non è il deserto con i cammelli, con le palme, è praticamente, lo vedete dalle fotografie, è un deserto roccioso, sono delle montagne, però delle montagne piene di acqua. Non solo l'effetto carsico, quando piove a Gerusalemme ci sono delle oasi all'altezza del Mar Morto, ma anche il Giordano, che nasce sulle montagne del Libano, che sono più di 3.000 metri di altezza, quindi c'è neve, arrivano acque dolci, quindi in questo sito c'era acqua, quindi era possibile vivere, quindi deserto sì da un lato, però di vivere. Poi la seconda domanda essenziale, chi viveva là? Allora viene fuori, e qui bisogna, mi sono dovuto leggere per fortuna Giuseppe Flavio, che parlava degli Esseni. Gli Esseni erano, chi erano gli Esseni? Erano una comunità religiosa, la famosa Yahad del deserto, che era dedita a studi e che non era in linea con l'ebraismo rabbinico. Erano degli studiosi che vivevano, si ritiravano al deserto, si ritiravano lì, stavano lì degli anni, ma poi non era una vita monastica tipo quella cristiana. Andavano lì per uno, due, tre anni, facevano questa una sorta di stage, di meditazioni, poi rientravano nella vita borghese. Poi fondamentale, e l'ho detto prima, in una giornata di cammino da Gerusalemme si poteva arrivare a questo sito, che come potete vedere dalla cartina è vicino a Gerico e anche vicino alla fine del Giordano, che allora, prima che i giordani lo deviassero per irrigare, andava a bagnare il Mar Morto. Quindi la prima cosa da che ho cercato di ricostruire era chi erano gli Esseni, dove erano, e questo dà senso a quello che racconta Giuseppe Flavio. Poi ci sono altre due cose inquietanti, a mio parere. Questo affascina perché è un'indagine vera e propria, quindi è proprio una ricerca che a me personalmente ha divertito. Cioè, come mai è stato oscurato? Allora, è stato, come si può dire, non è stato dato il giusto risalto. È una scoperta archeologica inquietante, impressionante, ma perché hanno nascosto? Allora, ricostruendo la storia, si capisce che questi Esseni, che alla fine probabilmente erano anche zeloti, o comunque convivevano, prima del sacco di Gerusalemme e prima della distruzione di Masada, hanno nascosto la loro biblioteca. Ed è questo, dove? Vicino a un sito. Il sito però, fino al 1967, era Giordania. La porta dei Leoni a Gerusalemme, che è la porta orientale, era allora il confine con la Giordania. Quindi era sotto la giurisdizione del metropolita siriaco, giacobita, quindi quelle forme cristiane apostolane, e soprattutto dell'école biblique di Gerusalemme, quindi era in mano queste ricerche della, diciamo così, della Chiesa, i quali non solo hanno un po' taciuto, ma hanno anche, secondo me, o secondo comunque degli studiosi, anche nascosto queste scoperte. Nel 67, quando, dopo la guerra dei sei giorni, è diventato territorio israeliano, o comunque occupazione israeliana, hanno cominciato gli studi in maniera sistematica. Perché dico questo con una certa, un po' scandalizzato? Perché a 40 km a sud, invece, la parte sud del Mar Morto era Israele, le ricerche archeologiche fatte a Masada sono state fatte in maniera scientifica. Quindi fatte in maniera come si fanno le ricerche archeologiche, mettendo poi a disposizione del pubblico o dell'umanità i risultati. E quindi è stata ricostruita l'assedio di Masada con il forse suicidio di Nasser. Questo che non è avvenuto invece nel territorio, chiamiamolo così, giordano. Quindi ci sono 20 anni di cui si sa poco. Si sa che certi manoscritti sono finiti in gallerie private, poi sono comparsi a New York piuttosto che a Zurigo. Non c'è una ricerca omogenea. Poi la nostra guida israeliana ci ha portato a vedere il museo a Gerusalemme, il museo di Qumran. E devo dire, è fatto benissimo, è rifatto un po' con i fili della luce, sotto c'è questo museo, è sotto una cupola bianca, in fondo c'è un muro nero che sono i fili delle tenebre e quant'altro, però uno esce e non ha capito niente. Non ha capito perché vede lì qualche rotolo di Isaia, qualche rotolo biblico, ma non c'è una cronistoria, un evidenziare quello che è scritto nei manoscritti. E allora arrivo al punto, cioè cos'è che è stato trovato? Allora da quello, e questa è stata la ricerca più difficile, perché si arriva a un certo punto, via internet è possibile farlo, però si arriva a un certo punto che ci si arrende. Comunque sono stati scoperti 14.000 frammenti, 800 manoscritti quasi integri, e cioè c'è circa 1.500 in tutto tra completi e non completi, quindi c'è parecchio materiale. E qui comincia la parte affascinante di questa ricerca, perché allora si entra nel merito. Cosa dicono questi manoscritti? Allora, tanto io non so l'ebraico, quindi devo dare per scontato che le traduzioni dei libri ai quali ho avuto accesso siano delle traduzioni corrette. Però, parallelamente, mi hanno costretto a fare una cosa molto interessante, che non avevo mai fatto in vita mia, cioè leggere i Vangeli veri, quelli accettati dalla Chiesa, e soprattutto rileggere la Bibbia. Ma questo poi porta a rileggerli sotto un altro punto di vista, e lì diventa veramente divertente. Allora, la prima cosa che stupisce, che salta l'occhio, è che scritti cumranici più vecchi di 100-150 anni antecedenti alla nascita di Cristo hanno più o meno le stesse parabole che poi sono riportate 200-300 anni dopo nei Vangeli sinottici. Poi succedono delle cose strane, cioè questa comunità di cui un rotolo specifico parla, che è il rotolo della disciplina, parla di come è organizzata questa comunità e parla che è retta da una triarchia, da un maestro che ha due aiutanti, uno chiamato figlio, figliolo, e l'altro chiamato spirito. Poi questi tre, chiamiamoli così, questa triade, è supervisionata da un consiglio di 12, scelti tra i fratelli, tra i maestri più venerabili, titolati. Quindi qua cominciano ad esserci dei primi dubbi, dico, come 3, 12, sono dei numeri, sono delle cose che ho già sentito da qualche parte. Poi cominciano a entrare anche nel linguaggio. Allora, il linguaggio usato dagli Esseni è un linguaggio molto simile a quello usato nei Vangeli ed è dissimile da quello usato dall'ebraismo rabbinico. Quindi c'è questa comunanza non solo di parabole ma anche di linguaggio. Quindi questo sempre cominciano e allora il maestro disse e fanno parlare in prima persona il maestro. Molte frasi, e questo è abbastanza evidente, sono poi criptiche, perché gli Esseni, che come dicevo prima probabilmente erano diventati a un certo momento zelotti, o comunque c'erano gli zelotti nella comunità essena, usavano un linguaggio Roma, per esempio, la chiamavano Babilonia, l'imperatore era il leone, il capo della comunità era chiamato il molti. I ranghi più alti della comunità delle Esseni erano i poveri, i ciechi erano i non iniziati, i lebbrosi erano diciamo i ranghi più bassi della comunità. Quindi sono tutte poi delle espressioni, far vedere i ciechi, la luce ai ciechi e quant'altro, che ritroviamo nei Vangeli. Questo pone dei dubbi, ma i paralleli non finiscono qua. Vanno avanti, ma anche geograficamente, e adesso sta proprio andando l'immagine delle gallerie. Queste gallerie sono sotto la spianata del Tempio. Allora, se è vero che gli Esseni hanno nascosto nelle grotte vicino alla loro comunità, che detto per inciso, secondo padre De Booker, capo delle Cor Bibliche di Gerusalemme, era una stazione romana e non una comunità, è altrettanto plausibile che gli Esseni, che avevano anche una sinagoga più o meno dove c'è il Monte Sion, dove secondo la tradizione c'è stata anche l'ultima cena, abbiano nascosto parte della loro biblioteca anche nei cunicoli sotto la spianata del Tempio, che solo in parte adesso si può visitare. E chi ha avuto accesso prima della scoperta dei rotoli di Qumran, l'accesso in questi cunicoli? I famosi templari. E qui si apre un'altra interessantissima serie di quesiti. Quindi, facendo un attimo il punto della situazione, quando ci si addentra in questi meandri, invece di trovare delle risposte, si trovano sempre altri quesiti. Cioè, la piramide si ribalta, io ho trovato una risposta, però a questa risposta ci sono altre 10 domande. E si va avanti in maniera impressionante anche sulla rilettura della Bibbia, perché la stessa, nella Bibbia intendo dell'Antico Testamento, il quale, per esempio, in una oasi vicino a Qumran, che è in Gedi, dove adesso c'è una sede università, una volta c'è stato un kibbutz, quanto pare lì Davide ha conosciuto Bezzabea, è tutto lì a tiro di schioppo, gli Ericoli, cioè Sodoma, è tutto in un fazzoletto di terra. Per noi erano sempre dei nomi così mitici, poi qua in mezzo alle Dolomiti si deve parlare di Sodoma, cioè chissà dov'è, invece vederlo è tutto veramente a dimensione di non dico di passeggiata, ma comunque è tutto a tiro di schioppo. E qua viene fuori anche la rilettura della Bibbia, proprio guardando la spianata del Tempio con i cunicoli. Io mi sono posto delle domande, non credo che Salomone, che sì, era un re illuminato, era figlio di un pastore, Davide, tutto sommato, questa spianata è enorme, ci sono delle pietre, c'è una pietra che è lunga 13 metri, grande come un camion, messa sotto così per fare un tempio, per mettere dentro l'arca dell'alleanza che fino allora era sotto una tenda, fa tutta questa spianata, sì, lo si accetta, ma come dico, si trovano sempre, a questo punto si mette un po' in discussione tutto, la ricerca diventa eterna, ma risalta quando si parla di questo concetto monoteistico e di come gli Esseni hanno interpretato il monoteismo, a differenza degli ebrei, chiamiamolo così, farisaici, rabbinici, è di chiara influenza egizia. Quindi ci si pone anche altri quesiti. Chi era sto Mosè? Che esiste per gli ebrei, ma non esiste per gli egiziani. Per gli egiziani esisteva Kenaton, che aveva il concetto del Dio unico, che poi a un certo momento muore e i suoi sacerdoti dove sono andati? Quindi diventa una cosa allucinante, potremmo andare avanti per delle ore. L'unica cosa che vorrei sottolineare ancora, prima di magari fare una breve pausa, è che anche, non solo l'Antico Testamento, ma anche la rilettura dei Vangeli sinottici diventa altrettanto interessante, perché per esempio si parla di Barabba. Barabba a noi è sempre stato descritto come un ladrone, però l'etimologia, bar in ebraico vuol dire figlio, e Abba vuol dire padre, quindi si chiamava figlio del padre, uno è stato risparmiato, l'altro è stato risparmiato. Parallelamente, nell'Alto Egitto sono stati scoperti i Vangeli gnostici, che erano stati bruciati dopo il concilio di Nicea, e quelli parlano e contraddicono un po' quello che dicono i Vangeli sinottici. Quindi sostanzialmente arrivo a una conclusione. Cos'è interessante, a mio parere, di questo studio? Innanzitutto la bibliografia. Il mio tentativo è stato quello di facendo un po' di ordine, mettendo i nuovi soggetti e i predicati verbali, complementi e oggetti di questa roba, di poter consentire a chi fosse interessato a questi argomenti di poter accedere un attimo più disincantati e con gli occhi più aperti alla bibliografia, alla rilettura dei testi cosiddetti sacri, e poi giungere alle conclusioni che poi ognuno, chi ha la fede, chi non ce l'ha, poi questo non ho assolutamente intenzione, voglia di parlare di fede, non è il tema che mi interessa, a me interessa la parte storica, vedere un attimo cosa di effettivamente vero c'è nella tradizione nostra cristiana, cosa invece mettono in dubbio o quali quesiti o quali dubbi pongono questi reperti, e lì si capisce anche perché tutto sommato sia la Chiesa cattolica cristiana, il cristianesimo in genere, ma anche l'ebraismo rabbinico, non dimentichiamo che in Israele tutto sommato un grosso peso hanno gli ebrei ortodossi, quelli famosi, quei riccioletti, i quali degli Esseni, parlare di Esseni come parlare di Satana, quindi ci sono due strutture abbastanza forti che hanno tutto l'interesse a minimizzare e a fare. Io spero con queste poche parole di essere riuscito a dare una pennellata, cioè a dare un'idea di quello che ha voluto essere il mio lavoro, e direi, se non avete nulla in contrario, che sarebbe abbastanza interessante fare proprio il rabbino, io, cioè i rabbini non insegnano come insegnano i nostri professori, cioè sono gli alunni che fanno le domande, quindi vi ringrazio per l'attenzione. Sì, io passerei volentieri la parola al pubblico se ci sono delle domande, introducendolo proprio perché mentre parlava Peter mi è venuto in mente un po' quale potrebbe essere l'immagine più efficace per questo libro. Quando lui parlava appunto di Gerusalemme che è a 800 metri sul livello del mare e poi si scende rapidissimamente nella depressione del Mar Morto, c'è proprio la strada che porta da Gerusalemme giù verso il Mar Morto, verso Engedi, che affianca Gerico, e poi c'è un rettilineo, saranno 3 o 4 chilometri, e a un certo punto all'inizio di questo rettilineo c'è un cartello 0 metri sul livello del mare, poi il rettilineo continua giù, sembra proprio di precipitare un po' negli inferi, un'immagine da fotografia. E diciamo che il libro di Peter è proprio un po' questo, cioè è un invito ad andare oltre, ad approfondire, a non fermarsi alle apparenze ma a scavare più in profondità. Se voi da questo libro vi aspettate delle certezze, delle risposte sicure, e lo dico contro l'interesse dell'editore, non compratelo, perché non avrete delle risposte definitive, non avrete delle certezze assolute. Però mi auguro, e questo è anche il motivo per cui, pur essendo noi una casa editrice che pubblica normalmente narrativa, abbiamo appunto scelto di pubblicare questo saggio, mi auguro che sarà l'inizio, quello che con un orribile termine inglese del linguaggio informatico si chiama input, per andare oltre, per partire da questo punto e approfondire ulteriormente un argomento che è fra i più affascinanti in assoluto che ci hanno sottoposto l'archeologia e la storia degli ultimi 50-60 anni. Vi chiedo scusa intanto dallo zainetto con cui sono venuto in treno da Verona, recupero anche un altro po' di copie del libro, visto che siete così numerosi, in modo da... Passerei la parola a Peter. No, al pubblico a questo punto. Io posso approfittare per fare una domanda? Ma certamente. Personale? No, niente, volevo sapere, anni addietro avevo letto questo libro, è un libro abbastanza valido? Sì, sì, questo qua, sì. Ah, sì? Sì. Grazie, scusate. Ma sono tutti... cioè, voglio dire, si trova la letteratura in merito, è tutta valida. C'è anche parecchia spazzatura, ma... Beh, appunto, non conosco. No, questi sono due autori... penso che li ho citati addirittura nella bibliografia mia. Ah, grazie. Prego. Penso che molti di noi, il collega qua, il sindacato di Qumran, sarebbe l'antica Gomorra, la Paria. Io chiedo una cosa, non vorrei andare oltre il discorso storico, ma siccome torniamo con dei dubbi, con qualcosa di storicamente non convincente, allora trovandola come lei, si troviamo d'accordo bene. Nel campo religioso, adesso io tralascio il discorso di fede, la mia opinione è che comunque Gesù Cristo è chiaro che è passato da quelle parti, non si mette in dubbio l'esistenza e niente dei Vangeli, però da come ho capito dalle guide come lei, meno male comunque c'è un rapporto tra gli Esseni e Gesù Cristo, se no casca un po' il palco. Secondo la mia opinione, che non sono studioso, è chiaro, intanto mi pare comunque che da quelle parti abitasse anche un certo Giovan Battista che ha battezzato Gesù, e pare, la mia opinione è che, poi vediamo un po' la sua opinione, comunque è stato un allievo degli Essini, comunque è stato un grande capo di quella setta, e comunque pare che comunque il rapporto tra gli Essini e gli Zelotti si vuole nascondere, perché noi siamo i Romani e noi siamo coloro che combattevano e diamo una visione diversa. Secondo lei Gesù ha a che fare con gli Essini o no? Domanda. Ma Papa Ratzinger ha addirittura detto Gesù del Senno, quindi non è un mistero. Gesù non è un nome, è un titolo. Cristo vuol dire Messia, vuol dire unto del Signore. Quindi la ringrazio per la domanda. Io le rispondo con un'altra osservazione. I Vangeli, a differenza dei reperti trovati a Qumran, non esistono, cioè esistono trascrizioni passati da concili, da quant'altro. Non esiste la stele di Rosetta, non esiste la tavoletta sumera che è lì da 6.000 anni. Noi i Vangeli che noi abbiamo sono trascrizioni di trascrizioni, quindi non sappiamo, io parlo dal punto di vista storico, fino a che punto siano poi stati addolciti, addomesticati. Quelli trovati a Nag Hammadi sono comunque fatti 400-300 anni dopo la morte di Cristo, esattamente come i Vangeli nostri sono tutti postumi, quindi sono dei dubbi, cioè io, ognuno poi ha i suoi dubbi o le sue certezze. Io ripeto, quando si va, approfondisce, si capisce che è un periodo abbastanza complesso. Certo è, qui le do ragione, che comunque il protocristianesimo e gli esseni sono secondo me la stessa roba, comunque come linguaggio, poi c'è questa, sempre questa componente in più che è la fede, che io personalmente non ho, quindi la mia visione, ma non deve essere, non voglio influenzare gli altri, cioè c'è chi ce l'ha, chi non ce l'ha, però certo è che rileggendo, rivedendo queste cose, tutto è successo là, è plausibile quello che è successo, poi cosa è successo veramente? Sappiamo solo che i romani gli hanno fatto piazza pulita, questo è poco, ma non assicuro. Prego. Risulta che anche la figura del Papa Evangelisti sia in sostanza simbolico, cioè sintesi come Omero in sostanza, la figura che ha attorno alla quale si sono raccolti, molti hanno raccolto questi miti. Poi io stesso leggendo un po' si contesta anche la nascita di Cristo a Betlemme, Gesù sarebbe nato a Nazareth, sarebbe vissuto lì, poi c'è questo periodo di vuoto dall'infanzia fino ai 30 anni, secondo quale lui avrebbe avuto una vita da normale cittadino, mentre si parla di suoi viaggi in Oriente sulle orme di quanto aveva fatto Alessandro Magno, insomma, arrivando fino in India, dove avrebbe recepito alcune forme di iniziazione. Sì, quello che dice lei è estremamente interessante, cioè i titoli, cioè Marco, così sono tutte delle costruzioni fatte a posteriori. Due cose emergono dagli scritti che non ho detto. La prima è che Nazareth non esisteva ai tempi di Cristo, a quanto pare. Però gli esseni erano chiamati anche quelli della verità, che in ebraico si dice Nazarei. Quindi in realtà il titolo di Nazareno non era riferito a una cosa geografica, cioè ma all'appartenenza alla comunità degli esseni, questa è la prima cosa. Poi, se noi rileggiamo i Vangeli, sono solo Marco e Luca che parlano, Matteo e Luca che parlano della nascita, e anche lì uno nasce durante il censimento di Quirino, l'altro nasce, quindi ci sono delle discrepanze, anche la genealogia è differente, quindi si vede che sono stati un po' ricostruiti a posteriori. Invece io ho pubblicato nel libro, quello che è abbastanza interessante, alcuni passaggi del Vangelo di Filippo e soprattutto per intero il Vangelo di Tommaso, che è uno dei più esoterici, uno dei più vicini al mondo orientale di cui parlava lei. Quindi la dimostrazione di quello che lei dice è che effettivamente quelle terre lì erano un crocevia anche culturale tra Oriente e Occidente. Quindi noi abbiamo sempre questi risultati, però quello che è successo veramente secondo me non è difficile ricostruire. Sì, anche le date, la sistemazione costellare, eccetera, anche quelle non quadrate. Tutto. Bene. Prego. Premesso che sono stata anch'io a Qumran, le guide secondo me danno le loro versioni personali, seconda di quello che loro studiano. Per esempio, io ho recepito che da quando Gesù ha parlato ai dottori fino a quando ha compiuto più di 30 anni è sparito, della sua vita non si sa più niente. e in effetti non c'è scritto da nessuna parte dove sia andato, cosa abbia fatto. Le guide, le di Qumran, ritengono che lui in tutti questi anni sia rimasto lì dove c'era anche Giovanni Battista, come discepolo di questa setta. Può essere vero o no? Difficile da dire. Grazie. Siamo sempre nelle cose delle ipotesi. Scusi, lei ha detto che non esisteva a Nazareth, e allora quegli scavi che sono sotto la chiesa a quale epoca risalgono? Ma al primo secolo dopo Cristo. E anche gli scavi sotto la chiesa di San Giuseppe? Nel primo o secondo secolo dopo Cristo. Sono parecchio fondi, sì. Con delle vie strette. Sì, quindi qualcosa c'era. Sicuramente non c'era, allora diciamo così che la fonte alla quale attingono gli studiosi è il censimento che ha fatto Giuseppe Flavio. Giuseppe Flavio non parla di Nazareth, ma lì col Carbonio 14 stabilire con esattezza cosa è successo, perché lì sono passati. È passata Elena, che era la madre di Costantino, la quale ha fatto primo repulista, è tornata penso con una tonnellata di pezzi di croce, e parliamo di che era di legno tre secoli dopo, quindi è scarsa. Cioè, lì è successo di tutto il contrario di tutto, quindi io sono sempre personalmente molto cauto nell'accettare. Certo che nel Vangelo di Filippo il concetto dei Nazareni è espresso molto chiaro. Cioè dice sono quelli, quindi è quello dell'alleanza, quello della verità, quindi era un titolo, esattamente come gli Esseni, rifacendosi a un passo della Bibbia, della Torah, adesso non mi chieda quale dovrei guardare, chiamavano Damasco la loro sede. Quindi quando Saulo di Tarso dice che è stato folgorato sulla via di Damasco, alcuni studiosi ritengono che sia successo mentre andava a visitare la comunità di Qumran. Che tra l'altro Qumran è il nome arabo, anche lì è un wadi chiamato dai beduini così, gli ebrei lo chiamavano Sekaka, quindi è un altro nome, quindi Qumran è quello che è conosciuto al giorno d'oggi. Allora andiamo oltre, hanno trovato, cioè sotto i resti di Qumran hanno datato alcuni ruderi a 8 secoli prima di Cristo. Lì è un posto talmente archeologicamente talmente interessante che parlare di certezze si commettono secondo me sempre degli errori di valutazione, è tutto aperto. Certo è che non è una stazione romana, e questo lo dimostrano le foto, quindi certo è che non sono stati fatti degli studi scientifici neanche su Qumran, è stato troppo tardi quando ho cominciato, quindi molte cose sono andate perse, questo è un peccato tremendo. Io ho saputo addirittura che alcuni beduini usavano le pergamene per accendersi il fuoco, quindi le vendevano al mercato di Betlemme, quindi sono stati fatti dei disastri archeologici allucinanti. E hanno cominciato adesso a essere severi, se uno esce dal seminato c'è corre dietro, ma fino a 10-15 anni fa si poteva. Su quella pianta che compare di Gerusalemme, no? Quella sì. Storica, varie epoche, mi pare, se non ricordo male, che c'era anche il quartiere degli Esseni, ai piedi del monte dove sorge la chiesa della Dormizione. Esatto. E dove si pensa che sia vissuto quando era Gerusalemme. Dove c'era la sinagoga a Senna? Monte Sion, vicino alla tomba di Davide. Esatto, dove Davide. Comincia poi tra l'altro il muro del pianto, dal quale si accede la parte, diciamo, che noi possiamo visitare dei cunicoli sotto tempio, si parte dal muro del pianto, quindi la parte ebraica dove si presume poi fosse il Sancta Sanctorum del tempio. Ma anche lì i musulmani pongono dei veti, quindi noi ci siamo addentrati penso a 500 metri, non di più. Ma non è mica detto che finiscono, poi ci sono le cave di Salmone, cioè è tutto un gruviera. Quindi dire andare con certezze, secondo me si incorre sempre nel rischio di fare dei clamorosi errori. Quindi quello che invito, quello che ha rapito me, è proprio invece cercare di capire il senso dei messaggi. Cioè c'erano questi studiosi, i quali avevano un calendario solare, quindi un anno di 365 giorni, a differenza degli ebrei che avevano il calendario lunare, conoscenze terapeutiche, matematiche, astronomiche, erano degli illuminati. Lo stesso Giuseppe Flavio a quanto pare è stato 3 anni a fare delle meditazioni. manifestazioni, quindi era un punto di cultura notevole. Infatti l'amore per la biblioteca, il terrore che i romani la distruggessero, li ha spinti a nasconderla. Voglio dire, questo è quello che ci dà l'opportunità di rivedere. Poi, voglio dire, questo è un piccolo passo. Poi, secondo me, proprio anche attraverso la bibliografia, così si può, ognuno può fare poi un suo percorso personale e arrivare poi alle conclusioni che senza per questo che chi volesse sia turbato nella fede, perché insomma, la fede è una cosa poi estremamente personale, non sono di certo io che ho né titoli né voglia di parlarne. Sì, non ci sono altre domande? Io... Un attimino, uscendo magari... Sì, prego, prego. Uscendo magari un attimino un po' dal seminato, oppure mi concedo ampliando sì, il campo. Sì. Lei immagina che può sapere per quale criterio certi Vangeli sono stati riconosciuti dalla Chiesa, certi altri no, come, perché poi vengono riconosciuti certi che li hanno scritti che non hanno mai conosciuto Cristo, quindi... Io penso di non avere l'aria del religioso, non so rispondere, signor, non so che meccanismi c'è il Signore laggiù che vuole. Dovrei. Grazie, volevo solo chiedere questo, non le pare un po' ardito rileggere i Vangeli dalla luce delle scoperte di Qumran, nel senso che i Vangeli hanno tutta una esegesi, una storia millenaria, e secondo me appunto è abbastanza ardito rileggerli alla luce delle scoperte di Qumran, anche perché Qumran comunque è sicuramente un fatto storico, ma anche i Vangeli sono un fatto storico e hanno comunque una storia millenaria. No, non ho dubbi in merito. Non ho assolutamente dubbio, quello che dice lei è corretto, però non è Qumran che porta alla rilettura. È la sete di conoscenza, cioè alla luce di fatti che, come dicevo prima, i Vangeli esistono nella misura in cui sono delle copiature, delle ritrascrizioni di un testo di cui manca l'originale. Questi scritti qua sono lì intonsi da 2000 anni. Quindi la rilettura non va, secondo me, fatta in... è una... Cioè quello che dice l'esegeta, quello che dice la fede, lei lo accetta, va benissimo, cioè non, per l'amor del cielo non vuole discutere. C'è una lettura storica dei Vangeli, attenzione. Sì, ma la lettura storica dei Vangeli, cominciamo con la date, con le date sono già in contraddizione, ci sono parecchie cose che non è... Non... della storiografia, se lei descrive un fatto, lo descrivo io, sono due cose diverse. Sì, abbiamo lo stesso fatto, però lei lo descrive con la sua cultura, io con la mia. Esatto. Quindi descriviamo la stessa cosa, ma in maniera diversa. Per cui è ovvio che siano interpretazioni diverse. È un discorso che assolutamente io non ho toccato nel libro e che non voglio neanche toccare, perché entriamo in una sfera personale, ripeto, di fede. Ma la storia è oggettiva, non è personale. Se mi permette, le rispondo anch'io, pur non solo accettando i suoi rilievi, ma anche in gran parte condividendoli. Come dicevo prima, il libro pone dei dubbi. Quando ci sono alcuni passaggi che si ritrovano identici nei Vangeli e sono stati trovati su delle laminette o delle pergamene che il Carbonio 14 oggettivamente dichiara essere state scritte 3 secoli prima della nascita di Cristo, i dubbi sorgono. Cioè, se io come editore pubblico un libro e qualcuno mi tira fuori un libro che è stato scritto nel 700, 3 secoli fa, identico, è molto probabile che io l'abbia copiato, comunque mi ci sia ispirato. Qui, quello che presenta nel libro Peter sono dei dati di fatto, ovvero sia, ci sono alcune pergamene, alcune laminette, che riportano dei passi uguali, identici a quelli che sono i Vangeli accettati da tutti. Peccato che queste pergamene siano datate col carbonio 14, che ritengo sia il più oggettivo degli strumenti a disposizione della scienza moderna, sono stati datati 3 secoli prima della nascita di Cristo. Qualche dubbio è legittimo porselo, poi ciascuno può trarre le conclusioni che vuole, però ripeto ancora una volta, a scanso di annoiare l'uditorio, Peter pone dei dubbi, si fa delle domande, non pretende, non vuole dare delle risposte. questa è la forza del libro. Io vi ringrazio infinitamente per l'attenzione e vi auguro una buona serata. Grazie. Grazie.